benvenuti alla quinta puntata di Cialtroni nello spazio. In studio oggi ci sono io, Francesco appunto e Alessandro. Ciao. E poi virtualmente avremo con noi anche Marco, a cui durante la trasmissione ci divertiremo a tirare degli scherzetti, tipo quello che gli sto per dire, ovvero Marco, saluta. Ciao a tutti. E se Marco ha capito cosa doveva fare, adesso ha aggiunto la sua voce con il programma che presenterà questa sera. Bene, anche la nostra sigla è giunta a conclusione, andiamo a vedere un po' la scaletta di questa puntata, la numero 5. Alessandro? Allora, oggi riprenderemo il discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa con Winamp e con Knoppix. E riprenderemo un attimino la presentazione appunto di questa distro live, che è la più diffusa e la più importante distro live. Poi faremo un po' di storia parlando della prima causa antitrust contro la Microsoft. Molti di voi si chiederanno che cosa c'entra tutto questo con la trasmissione di informatica. È una causa piuttosto istruttiva, anche facilmente comprensibile, che permette di capire perché Microsoft è diventato Bill Gates, insomma, è diventato il leader mondiale dell'informatica per un PC e anche oltre. Poi parleremo di Engie Vision, un progetto dedicato alla condivisione di file multimediali, la produzione di file multimediali per televisioni di strada. E poi Marco ci presenterà Audacity, questo fantastico programma che sta usando per aggiungere suoni e voci a questa registrazione. Infatti, siamo qui per parlarvi di Audacity. Audacity è un semplicissimo programma di editing musicale che ci permette di prendere dei pezzi da file diversi, modificarli, incollarli, tagliarli, inserire un pezzo di un audio dentro un altro e insomma un po' di giochetti che sto facendo, ad esempio io che sto aggiungendo delle informazioni audio alla trasmissione registrata qualche giorno fa da Francesco e Alessandro. Vabbè, abbiamo lasciato ancora qualche minuto qualche secondo di silenzio per lasciare la possibilità a Marco di aggiungere qualche commento stupido a questa trasmissione tramite appunto il programma di editing audio che utilizzerà, non essendo in trasmissione con noi. Io direi che adesso possiamo anche iniziare, magari iniziamo proprio dalla presentazione del progetto di Engie Vision. La settimana scorsa abbiamo parlato di indie media, ovvero la possibilità per tutti di pubblicare del materiale principalmente scritto, quindi degli articoli, con facilità e dare un grande rilievo a quello che appunto a quello che si vuole comunicare. Engie Vision entra nella categoria dei progetti di questo tipo, ovvero sulla libera comunicazione. Engie Vision in particolare è la sigla di New Global Vision, un progetto che è nato insomma da qualche anno fa, molto simile e molto collegato ad altri progetti che poi presenteremo anche all'interno di questa trasmissione, come Isole nella rete, ECN o autistici.org. Il sito di Engie Vision, che è www.ng come Napoli Genova Vision, scritto vision.org, per chi vuole andare a navigarci, cosa ci trova sopra? Sostanzialmente ci trova dei video, ci trova molti video che sono stati creati soprattutto in momenti di movimento e che appunto sono video che presentano, per esempio in questo momento di fronte ai miei occhi c'è il video Robin Food, un progetto di presa di coscienza, denuncia e azione che presenta delle azioni che sono state fatte all'interno di questo progetto. Ma non è solo un modo per scaricare dei video che vengono prodotti all'interno infatti del sito di NG Vision ci sono alcune guide, una guida alla compressione video, guida insomma anche per capire che, come produrre dei video e anche dei programmi che permettono di guardare i video e anche di scaricare i video che vengono messi a disposizione dal sito, come ad esempio il programma BitTorrent, che è un programma particolare per lo sharing, per la condivisione della banda e permettere di non caricare troppo sui server, e spiega queste cose. Ma soprattutto c'è la possibilità di pubblicare i propri video, quindi tutti i media attivisti che vogliono pubblicare un video, metterlo a disposizione di tutte le altre realtà, possono farlo e devono semplicemente collegarsi al sito Upload, che si scrive upload.ngvision.org, tutto riconducibile al sito www.ngvision.org, e appunto caricare. Poi c'è un archivio che è abbastanza con un archivio in cui è possibile fare delle ricerche sia sull'archivio completo che in base agli autori, che in base alle categorie che si vogliono andare a visualizzare nel sito. E questo è insomma un po' una presentazione di NG Vision, che come dicevamo è un progetto abbastanza simile a Indie Media per certi versi, anche se è strutturato in una maniera completamente autonoma dal progetto di Indie Media. Vedo Alessandro che mi guarda come per dire: ho una domanda per te. No, era un commento, nel senso è un progetto più dedicato ai prodotti media, quindi comunque a immagini, filmati e cose di questo tipo, a differenza di Indie Media, che comunque è anche qualcosa di più. È un progetto di cui si servono molte televisioni di strada, quindi tutto quello che viene postato, inviato a NG Vision, molto probabilmente verrà riutilizzato dalle televisioni di strada, come viene fatto qui a Brescia da CTV. Che è sicuramente uno degli argomenti che tratteremo prima o poi, anche quello delle televisioni di strada, esattamente come quello, come un argomento molto interessante che non è completamente slegato, che è quello delle radio online. Però il nostro intento era quello di presentare un progetto a sera, quindi direi che per ora può essere tutto, insomma, come sguardo generale su NG Vision. Entreremo poi anche in altri progetti, magari proprio dalla settimana prossima presenteremo qualche radio online di quelle che fanno parte del circuito di radio.autistici.org. Vi anticipo il sito internet, magari lasciamo ancora qualche secondo di silenzio per Marco, e dopo andiamo ad ascoltare un brano. No, niente da aggiungere. Qua ho fatto un simpatico giochetto. Ho scritto "non ho niente da aggiungere" su un pezzo di carta al contrario. L'ho letto al contrario. Quindi ho letto "regnuiga ad et nein o non o on". E poi ho registrato la mia voce, l'ho invertita al contrario, in modo che leggendo la lettera al contrario si potesse sentire qualcosa, e quella la frase di prima. E il brano che abbiamo sentito era degli Aerodynamics, un gruppo di Pescara che ha suonato al Centro Sociale Magazzino 47 5 anni fa, occasione nella quale io ho comprato questo disco. L'album non è registrato SIAE e veniva venduto nei loro concerti. È un gruppo formato da tre musicisti che suonano e cantano. Vengono utilizzati sintetizzatori, drum machine, chitarre. Si trovano in buone condizioni fisiche. Sono sicuramente molto, molto particolari sul palco, perché si animano e ballano con movenze scimmiesche. E comunque è un gruppo che veramente impressiona dal vivo. Non so che fine abbiano fatto, se suonano ancora, non ne ho più sentito parlare a livello nazionale. Comunque li teniamo di sottofondo, mentre andiamo a parlare appunto della prima causa antitrust contro la Microsoft. Allora, la prima causa contro la Microsoft è stata intentata nel 97 su dei fatti avvenuti nel 93. Inizialmente nel 95 la Microsoft aveva accettato un patteggiamento, quindi riconoscendo parzialmente le sue colpe, e se non poi comportandosi non coerentemente col patteggiamento e quindi avviando una causa insomma, l'antitrust americana ha avviato poi una causa nel 97-98. Dunque, l'antitrust americana imputava alla Microsoft un comportamento scorretto, perché proponeva dei prezzi troppo bassi rispetto ai prodotti che vendeva, e perché aveva un regime di sconti che sfavoriva la concorrenza. Ovvero, la Microsoft proponeva due tipi di vendita agli OEM, cioè quelli che assemblano i computer come CompaQ, HP, IBM. Proponeva che le venissero pagate o le licenze del software che effettivamente veniva installato, in quel caso MS-DOS e le prime versioni di Windows, oppure di pagare un forfettario basato sul numero di CPU Intel installate, sostanzialmente sul numero di PC costruiti. Su questa seconda possibilità però proponeva uno sconto del 60% sul prezzo di vendita. Questo voleva dire che la maggior parte degli OEM scegliessero questa seconda possibilità di acquisto. In sostanza, cosa succedeva? La maggior parte degli OEM compravano Microsoft perché erano costretti, era d'altronde già il sistema operativo più venduto, MS-DOS, si parla sempre di PC casalinghi, e per spendere di meno rinunciavano a cercare un sistema operativo alternativo, che all'epoca poteva essere l'OS2 Warp, e perché questo comunque comportava delle spese aggiuntive. E questo ha di fatto distrutto la concorrenza in quel periodo, lasciando Microsoft effettivamente da sola. Si parla sempre di PC, quindi escludendo Macintosh e simili. E infatti Microsoft poi ha perso questa causa, prima col patteggiamento e poi effettivamente in tribunale, solo che la sentenza è arrivata a distanza di molti anni, con la conseguenza che se l'è cavata con una multa e poco più. Voluto presentare questa causa, che sembra un cavillo legale tra aziende, per far capire che comunque il successo di Microsoft e del suo uomo leader Bill Gates negli anni è spesso stato dovuto più che altro a strategie commerciali estremamente aggressive nei confronti della concorrenza, più che alle qualità tecniche o abilità particolari di Bill Gates. Ecco, ma di che anni stiamo parlando per questa sentenza? La sentenza finale è arrivata nel 2001, mentre invece i programmi risalivano al 93. Quindi insomma ci sono stati 7-8 anni in cui si è potuto agire, diciamo così, nell'illegalità in un certo senso, perché comunque poi la sentenza ha detto che questo non era possibile, però ormai erano passati un tot di anni e una fetta di mercato era stata conquistata. Poi tra l'altro mi sembra anche di ricordare che alcuni dei sistemi operativi che erano concorrenti sono rimasti poi distrutti e non hanno più nemmeno avuto la possibilità di opporsi a Microsoft. Per esempio, non so se OS 2 nel 2001 era un sistema operativo. Assolutamente no, era già morto all'epoca della causa, cioè del 97. Era già stato acquistato parzialmente, ecco, mi pare, da... Però nel 93 Microsoft in un certo senso era già un colosso dell'informatica. Come mai si è arrivati così tardi a una causa contro Microsoft? Ti faccio una domanda a cui non so se sai rispondere. Devo ammettere che non le avevamo concordate prima. No, quando si parla di industria high tech in realtà è sempre estremamente difficile. Tenete sempre presente che a parte che esisteva già una causa di questo tipo contro l'IBM già fallita, iniziata nella fine degli anni 70, primi anni 80, e che è fallita esattamente per le stesse problematiche, in quanto la causa e tutto l'iter giuridico è stato troppo lungo, e in quel caso però IBM ha perso la sua posizione di leader naturalmente, quindi diciamo che in quel caso perlomeno il tempo ha reso giustizia. Mentre per quanto riguarda la Microsoft, anche dovuto al fatto della ripetizione del reato, perché questa è solo la prima delle cause con antitrust contro la Microsoft, in realtà ce ne sono state altre negli anni che vedremo, anche più impegnative, e ce ne sono state anche recentemente, si è appena chiusa la causa contro la Sun Java, aveva intentato contro la Microsoft, e in questo caso Sun ha vinto, anche se di fatto Microsoft tende ancora a non seguire la sentenza, che è di non più di 6 mesi fa. Have you looking for a woman that'll satisfy me? Have you looking for a woman that'll satisfy me? Have you looking for a woman that'll satisfy me? Have you looking for a woman that'll satisfy me? Have you looking for a woman that'll satisfy me? passiamo al prossimo argomento in scaletta. La settimana scorsa abbiamo parlato di Linux, di questo sistema operativo, e volevamo anche dare, insomma, qualche dritta per chi volesse provare questo sistema operativo libero oltre che gratuito, il che significa che c'è anche la possibilità per i più esperti di metterci le mani dentro, di darci un'occhiata, di essere sicuri che non ci siano dei delle cose spiacevoli che una persona potrebbe non volere, come ad esempio la possibilità per qualcun altro di entrare nel proprio computer o di, insomma, di ricevere delle cose particolari, e soprattutto per ancora i più bravi la possibilità di mettersi a posto da soli gli errori. Ma probabilmente questo esula dagli argomenti di questa trasmissione e del pubblico, insomma, che ci ascolta, quindi partirei con il presentare la possibilità di utilizzare Linux senza fare nessuna modifica al proprio computer. Farlo è semplicissimo, bisogna semplicemente, insomma, scusate il gioco di parole, scaricare dal sito internet www.knopix.org la distribuzione Knopix, che è arrivata ormai alla sua distribuzione numero 3.7 e permette di utilizzare Linux senza installare nulla sul proprio computer, ovvero è semplicemente necessario di riavviare il proprio computer con all'interno del CD il CD appunto di Knopix, assicurandosi di aver impostato che la possibilità di avviare il computer dal CD, che è di solito un'opzione default nei computer attuali. Il CD parte e riconosce automaticamente, o almeno per quanto gli è possibile, la maggior parte del nostro hardware. Tendenzialmente, ecco, facciamo subito una distinzione tra hardware e software. Quando qualcosa non funziona e lo puoi prendere a calci, è hardware. Quando qualcosa non funziona e puoi solo imprecarci contro, quello è il software. Il più cattivo. E comunque per quanto riguarda le distribuzioni Linux in generale, dovreste poter installare quasi tutto sui vostri PC, ormai viene riconosciuto tutto tranquillamente, schede video, schede audio, senza grandissimi problemi. Qualche problema in più potreste averlo con una stampante economica oppure con il modem ADSL connesso USB, e con cui probabilmente avreste anche più di un problema di piccole dimensioni. Ecco, per chi poi volesse risolvere questi problemi, magari lo tratteremo in una delle prossime puntate, ma non è poi così difficile digitare www.google.it/Linux, spiegare con delle parole chiave all'interno del motore di ricerca famosissimo di Google il problema, quindi per esempio Knopix, modem ADSL, problema come parole chiave. Oppure mettere il nome del modem che o inserire, esatto, il nome del modem, e la maggior parte dei problemi, insomma, con un attimo di pazienza si possono risolvere. Però in questo momento quello che volevamo presentare è il sistema operativo. Quando avviamo Knopix abbiamo in definitiva un sistema operativo Linux vero e proprio da poter provare, con anche la possibilità di salvare le nostre impostazioni su una chiavetta USB o su un'area speciale del nostro hard disk, solo se questo lo vogliamo. Cosa ci presenta all'interno Knopix, Alessandro? Knopix è stata studiata in maniera tale da fornire un sistema abbastanza completo, fornisce tutto il software necessario per l'utilizzo da ufficio, quindi tutti i vari programmi, fogli di calcolo, stile Excel, editor testuali come Word, cose di questo tipo. Ovviamente non ci sono Microsoft Excel, Microsoft Word, ma la suite OpenOffice generalmente o equivalenti, dei player MP3 musicali di CD, dei player video, qualche giochino solitario, cose di questo tipo, e anche dei tool, naturalmente browser, client di posta, insomma tutto quello che normalmente uno usa su un PC di casa, c'è anche Audacity, quindi c'è la possibilità anche di fare un... Ecco, Audacity è questo programma che tra poco Marco verrà a spiegarvi, ed è quello che lui sta utilizzando in questo momento per inserire la sua voce in momenti stupidi, tipo non so se ha voglia di farlo adesso, probabilmente lo farà. Vabbè, noi qualche secondo glielo abbiamo lasciato. E in Knoppix però ci sono anche delle funzionalità un po' più avanzate. Ad esempio, può essere utilizzato tranquillamente come un sistema operativo provvisorio, per esempio se vi si blocca Windows e dovete assolutamente mandare una mail oppure leggerne una di quelle che avete archiviato. Con Knoppix ci sono degli strumenti per recuperare le informazioni della propria posta, per inviarla ovviamente essendoci client. Ci sono dei tool per aggiustare i sistemi operativi danneggiati, ad esempio se vi si è danneggiato il disco fisso. C'è la possibilità anche di avviare dei servizi come ad esempio server web eccetera, però diciamo che questo è già un passo un po' più complesso. Sì, carino per chi vuole provare, anche se insomma non è sicuramente questo lo scopo principale per cui è nato Knoppix. E naturalmente la sua prerogativa principale è il fatto di non dover installare nulla, quindi se combinate un grosso guaio spegnete il computer o riaccendete, avete il sistema operativo esattamente come se non aveste combinato nulla nuovo come prima. Ecco, dopo questa presentazione di Knoppix, noi adesso lasciamo la parola a Marco che ci presenterà il software Audacity, utilizzando il software Audacity, ovvero lui non è in studio con noi in questo momento, vedremo se sarà tanto bravo da non farsi rendere conto di questa differenza e quindi avrà dimostrato anche automaticamente le possibilità che il software Audacity appunto offre. Grazie Francesco per la linea e comincio subito a parlare di Audacity, questo software libero. Secondo me è veramente intuitivo e facile da usare. Ha un'interfaccia molto semplice, abbiamo pochissimi bottoni in alto che sono stop e play e abbiamo una serie di tracce audio visualizzate orizzontalmente che appunto mi permettono di prendere più pezzi di audio musicali oppure di frasi parlate, di poterli mescolare e unire, aggiuntare uno dopo l'altro come preferisco, allo stesso modo che potrei fare per esempio con un editor di testo in cui seleziono una frase che voglio mettere dopo un'altra con modifica taglia e la vado a portare col cursore dopo il punto dove voglio inserire, con modifica incolla inserisco lì la nuova frase. Come appunto se posso fare, come appunto dicevo, con un editor di testo, qua lo posso fare con Audacity. Posso decidere di prendere una determinata frase e di ripeterla, ad esempio, per n volte, come avete appena sentito, e di eseguire appunto dei semplici mix di canali, di tracce audio diverse, e appunto aumentando i volumi di una traccia, diminuendo i volumi dell'altra con dei tool visuali, oppure di far scorrere un audio rispetto all'altro in modo da anticipare, non so, un suono rispetto ad una canzone, e diciamo molto simile da quanto può essere l'editing di un testo normale. Audacity ha poi tantissimi effetti audio che possono andare a modificare appunto la mia voce e la tonalità di un determinato suono o altre cose, e andando ad ottenere appunto dei simpatici effetti come quelli che avete sentito fino adesso. Perfetto, penso che a questo punto la trasmissione sia già durata abbastanza e quindi ripasso la linea virtualmente a Francesco e Alessandro, che penso che a questo punto manderanno i loro saluti. Love me, love me. quindi dopo questa presentazione a cura di Marco del software Audacity, io direi che anche per oggi è tutto. L'abbiamo scampata, forse. Sì, non sappiamo nemmeno dire quanti minuti è durata questa trasmissione, perché Marco ha aggiunto il suo pezzo a posteriori. Direi che è giunto il momento della sigla. Un saluto da Alessandro, ci vediamo la prossima settimana. Un saluto anche da Francesca. E un saluto virtuale anche da Marco. Ok, quindi questa è la fine della puntata numero 5 di Cialtroni nello spazio. La settimana prossima è la puntata numero 6. E speriamo che Marco vi abbia salutato.